Sometimes I get a good feeling, yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that Trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Buonasera a tutte, questa è la 273esima trasmissione di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. E che a cura del coordinamento lesbiche romane sugli 87-900 MHz di Radio Onda Rossa nell'ambito del martedì femminista e lesbico autogestito. Stasera, visto che siamo prossime a una data che sta diventando un'altra delle date storiche, cioè il 25 novembre, la giornata internazionale contro la violenza maschile sulle donne, abbiamo con noi un ospite per noi graditissima e che andiamo a presentarvi subito. La nostra ospite è Bianca Pomeranzi, che è una femminista lesbica, e noi diciamo una lesbo-femminista storica, che è stata attivista del Pompeo Magno, è attivista nell'ambito del movimento femminista e del movimento lesbico, e è impegnata, lavora nel mondo della cooperazione da molti anni, e a giugno di quest'anno è stata eletta nel SEDIU. Sì, Comitato della Convenzione per l'eliminazione delle discriminazioni contro le donne. Benissimo. E quindi con lei faremo delle domande e comunque ci dirà qualcosa intorno a questa attività. Per il momento mandiamo un pezzo musicale per accogliere meglio questa situazione e a presto. Of love and hate, staying by the fireside. There's a good tradition of love and hate, staying by the fireside. Now the rain may fall, your father's calling you, you still feel safe inside. Although your mom's too proud, your brother's ignoring you, you still feel safe inside. Oh, was this solo? Was this yesterday? Was this true for you? Cause while all the rest had taken time, this didn't do enough for you. And the corners laced with memories tell you how it used to be. Your mother smiles, children play, and all the bad things happen miles away. And strong feelings never bother you, you hold your head up while the rest of us try to. Oh, call the stations, call the people, we all wanna know. Cause while all the rest have taken time, you don't wanna know. Fireside, there's a good tradition of love and hate, staying by the fireside. No, the rain may fall, your father's calling you, you still feel safe inside. No, your ma's too proud, your brother's ignoring you, you still feel safe inside. Oh, was this summer? Was this yesterday? Was this true for you? Cause of all the choices you have made, Allora, siamo nuovamente qui. Bene, quindi Bianca, che cos'è il Sediu? Sedau. È una convenzione delle Nazioni Unite che è stata pensata e diciamo scritta negli anni 60-70, quando c'erano le grandi conferenze delle Nazioni Unite sullo sviluppo, dovute anche alla richiesta dei movimenti dei nuovi stati postcoloniali, e è stata ratificata dopo la prima conferenza ONU sulle donne di Città del Messico nel 79, è entrata in vigore nel 1981. È una convenzione che diciamo segna una serie di discriminazioni contro le donne per l'uguaglianza dei diritti fra uomini e donne, come è scritto nella Carta delle Nazioni Unite, e che ha avuto una fortissima influenza nel divulgare una valorizzazione del ruolo delle donne in tutto il mondo, in particolare nei paesi del sud del mondo, ma anche nei paesi occidentali, perché diciamo, non tutti i paesi occidentali hanno avuto la piena rispondenza legislativa con il concetto di uguaglianza tra uomini e donne, e adesso, dopo 30 anni di questa convenzione, si può vedere che ha segnato un forte progresso dentro, diciamo, uno spostamento nelle condizioni di vita delle donne. La CEDAW è una convenzione legata al periodo dei famosi dei felici anni 30, cioè quelli in cui i diritti sociali, un'impostazione keynesiana dello sviluppo, del lavoro, per esempio del lavoro, della piena occupazione, e di un forte ruolo dello Stato nella redistribuzione della ricchezza, davano delle speranze, no? Naturalmente a tutti. E quindi molto segnata da questo impianto, e anche si indirizza verso i diritti fondamentali delle donne e delle persone in termini di scelte della propria sessualità, di autodeterminazione della propria sessualità, di anche riconoscimento del ruolo della maternità, di riconoscimento delle donne, il diritto delle donne al lavoro, anche al lavoro extradomestico, e quindi ha in qualche modo portato un avanzamento nelle condizioni di molte donne. Naturalmente la grande forza di questa convenzione è legata anche a questo gruppo di esperti, che poi sono esperte, maggior parte, adesso c'è un uomo e ci sarà anche nel periodo in cui io sarò effettiva in questo gruppo di esperti, che va dal 2013 al 2017, al 31 dicembre del 2016, e questi esperti avranno il diritto di esaminare i rapporti di ciascun Paese membro rispetto alle condizioni delle donne in ciascun Paese. Questo è uno strumento notevole, perché consente di comprendere e di mettere i singoli Stati membri delle Nazioni Unite che aderiscono alla Convenzione, che sono ormai quasi tutti i 197 Stati delle Nazioni Unite, consente di identificare le situazioni di grande discriminazione. Questo è l'organismo. Fra l'altro, noi sappiamo che tu sei stata eletta immediatamente, appena praticamente proposta, quindi questo è anche un tuo successo personale, un riconoscimento del lavoro che tu da anni svolgi nell'ambito del movimento e come donna anche di movimento, no? Sì, io sono stata eletta da 132 paesi e la mia sono arrivata prima nella elezione, e addirittura più alta della Cina, che è un paese ovviamente che ha molti molto sostegno da tutti i paesi del sud del mondo, e anche della dell'attuale presidente, che è una brasiliana, insomma c'è stata una certa unanimità sul mio nome, legata anche alla mia professione di esperta di cooperazione allo sviluppo, che è un profilo un po' diverso da quelli di esperti di leggi legislative, avvocati, che di solito fanno parte, sono membri del comitato. Bene, quindi ci hai risposto anche alla seconda domanda che ti volevamo fare, e quindi quali sono, quello che volevamo sapere appunto erano quali sono i progetti e il lavoro che svolge questo organismo. E tu cosa pensi di occuparti nello specifico rispetto a questa nomina e rispetto anche poi alla tua esperienza? Io penso, non lo so come si svolgeranno, perché ovviamente vengo dal mondo delle Nazioni Unite, delle agenzie che intervengono direttamente, sono i paesi con i programmi, con le azioni specifiche a sostegno delle donne, ma penso che mi occuperò anche della relazione fra lo Stato di diritto e lo Stato effettivo delle condizioni in cui questi diritti vengono applicati. Come dicevo prima, la Convenzione è nata in un periodo diverso, poi c'è stata la globalizzazione, è servita anche per ridefinire alcune prerogative delle donne nella difficile fase della globalizzazione, ma adesso lo scenario internazionale è cambiato, ci sono nuovi paesi, bisogna trovare un linguaggio comune che però consenta alle donne, e direi anche agli uomini, di sostenere uno sviluppo, cioè di vivere in condizioni sostenibili, più che altro, che sostenere lo sviluppo. Certo. Allora, siamo sempre qui e un'altra domanda che volevamo porre a Bianca Pomeranzi è a proposito di un'iniziativa che verrà lanciata proprio a partire da questo 25 novembre e che viene definita la Convenzione contro la violenza maschile sulle donne, ed è stata redatta da UDI, Casa Internazionale di Roma, Casa Internazionale delle Donne di Roma, di RE, che sono poi la rete dei centri antiviolenza, Giulia, lavori in corsa di SEDAU ed altri, SEDAU, vabbè, io sono proprio contro la legge del padrone, la lingua del padrone, l'imperialismo del padrone, non ce la faccio. Comunque, SEDAU, Rosina mi ha suggerito, ed altri soggetti. E questa convenzione, di cui appunto anche l'organismo di cui fai parte tu è firmataria, ci faceva piacere sapere qual è il contenuto e cosa ne pensi soprattutto. Io ho letto quella che definirei una piattaforma che si chiama No More, che ha tutti questi soggetti che sono molto legati anche alla indagine che la SEDAU ha fatto nel 2011 sull'Italia, scoprendo discriminazioni notevoli in tema di migranti, di persone, donne che vivono in Italia ma non hanno la cittadinanza, quindi gruppi marginalizzati e devo dire anche fortemente vittimizzati, le Rom, le Sinti, eccetera, eccetera, e anche l'impostazione più generale sulla violenza contro le donne che è stata fatta da questa SEDAU in corsa, no? Per cui loro chiederanno, ma questo lo diranno meglio loro quando faranno la loro conferenza stampa, chiederanno degli incontri istituzionali per vedere come il governo pensa di attuare le raccomandazioni che sono state fatte appunto dai gruppi di dal gruppo di esperti sull'Italia. Poi c'è nella loro diciamo piattaforma c'è anche la volontà di vedere come l'Italia intenderà applicare una convenzione a cui l'Italia ha già siglato ma che non è entrata ancora in vigore perché mancano le firme dei paesi membri del Consiglio d'Europa, che non è l'Unione Europea, va sottolineato, che prevede, che è la Convenzione di Istanbul contro la violenza domestica, ed è una convenzione proprio legata allo spirito dei tempi, legata alle esperienze già di 30 anni, di 20 anni di lavoro dei centri antiviolenza, che mette a fuoco le definizioni di violenza contro le donne, di femminicidio, di stupro, di atti di molestie sessuali, e che diciamo in una serie molto lunga di articoli riconosce anche le varie diversità, disparità dei soggetti, le disparità, per esempio le violenze contro le persone con un orientamento sessuale diverso, quindi è molto più moderna e attuale, se vogliamo, della CEDAW, ma che riconosce nel preambolo anche il valore di questa lotta alla discriminazione contro le donne della CEDAW. Io ho firmato come singola Bianca Pomeranzi, perché ovviamente tutti gli atti che io farò non è che sono diciamo legati a questo ruolo che avrò nella CEDAW, sono diciamo una mia personale riconoscimento del valore o meno di un'azione politica. Nello specifico ritengo che la piattaforma No More sia faccia delle richieste molto, molto giuste per fare in modo che l'Italia diciamo abbia uno spostamento abbastanza veloce sulla violenza contro le donne, riprenda per esempio a finanziare i centri antiviolenza, che li metta fuori dalla spending review, cioè riconosca che è una priorità nel nostro paese. Sì, e fra l'altro, e poi magari facciamo un piccolo stacco musicale, fra l'altro questo al di là dello specifico, cioè della violenza maschile sulle donne, a noi sembra che lo Stato italiano brilli nel non far applicare delle norme, delle leggi sono leggi dello Stato, come per esempio tutta la questione degli obiettori di coscienza negli ospedali sull'interruzione volontaria di gravidanza, e anche su questo ci sembra che l'Europa stessa stia intervenendo proprio rispetto all'articolo 9 della legge 194, e di questa cosa ne abbiamo già poi parlato. C'è un ampiamente bambino che dice la sua, dice la sua, sta guardando, sì, si sente un bambino. E allora un piccolo stacco musicale. Has nacido oprimida, quizás tu conciencia ha dormido, tu vientre han estado violando, tus ansias han quedado vacías, luchar fue tu verbo olvidado. Miraste horizontes perdidos, mujer, te has estado entregando a ciegas como el aire en el llano. Mujer, oye tú mi llamado, por ti la esperanza ha brotado, por ti vuelve y nace la vida y nace una nueva ilusión. Luchar aminora veces tiempo de hacer de tus días ejemplo. Mujer, tu pueblo te reclama. Y nace la vida, y nace una nueva ilusión. Luchar, aminora tu llanto, vivir en lo libre y lo amado. Sin ti hay instancias vacías. Sin ti ya no existe. Allora, vi ricordiamo che siete all'ascolto di Una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione a cura del coordinamento lesbiche romane nell'ambito del martedì femminista e lesbica autogestito sugli 87-900 MHz di Radio Onda Rossa. La nostra trasmissione va in onda a partire dalle 21.15, mentre il martedì femminista e lesbico inizia tutti i giorni, tutti i martedì alle ore 17. Ricordiamo che c'è la possibilità di ascoltarci in diretta attraverso il sito della radio, che è www.ondarossa.info, oppure tramite il sito ufficiale del CLR, che è www.clrbp.it. In entrambi i casi basta cliccare sull'icona in diretta per essere subito con noi. Potete contattarci qui in radio allo 06 49 17 50 fino alle ore 22, oppure alla Casa Internazionale delle Donne di Roma scrivendo CLR presso Casa Internazionale delle Donne di Roma, Centro Femminista Separatista, via San Francesco di Sales 1B00165 Roma. E adesso prendete carta e penna e scrivete. La nostra mail è contatti@clrbp.it, il nostro sito l'avete già sentito prima, e poi il nostro cellulare a cui inviare gli sms, che è 339-8536-270. Vi ricordiamo inoltre che avete la possibilità di ascoltare le nostre trasmissioni andando su itt://mfla.noblogs.org/. Cliccando a Una calamità, dalla barra a destra verrà visualizzato lo spazio con le trasmissioni che potrete riavere a disposizione. E ritorniamo alla nostra intervista. E per altre due domande con Bianca, e grazie ancora per essere qui con noi. Allora, cosa puoi dirci dei femminicidi in Italia e nel mondo? I dati sono alla portata di tutte, perché l'Istat e tutti gli altri istituti non fanno altro che ricordare che c'è una morte, un femminicidio ogni 3 giorni, quindi ci sembra che i dati siano sufficientemente spaventosi. Ma in Italia, secondo te, come siamo messe? Quali sono le cose che si possono dire sulla violenza sulle donne e l'acme di questa violenza, la punta estrema? Cioè il femminicidio. Ma io credo che in Italia, innanzitutto bisogna dire che il femminicidio non è definito legalmente, non esiste nella nostra legislazione, non esiste neanche nella legislazione internazionale, fa parte di una grande campagna che è iniziata la parola viene da una definizione data, mi sembra, negli anni 70. La pratica della lotta contro il femminicidio è legata a una particolare situazione delle donne di Ciudad Juárez in Messico, dove ci stanno le grandi maquilas, cioè le imprese delocalizzate di altri paesi, e dove sono scomparse, continuano a scomparire. In Italia la parola femminicidio sta prendendo corpo grazie a questo attivismo del movimento femminista, che è iniziato in particolare nel 2007, e adesso dovrebbe essere ratificato e riconosciuto con questa Convenzione di Istanbul, peraltro già firmata come paese aderente dall'Italia. In realtà non esistono statistiche. L'Italia ha fatto in una maniera, attraverso l'Istat, nel 2006 una prima statistica sulla violenza, poi i fondi furono sospesi e non si è ripreso questa, che era anche una analisi, indagine e statistica particolarmente interessante. La Convenzione di Istanbul insiste molto sul dovere degli stati di raccogliere i dati, e questa è una innovazione anche rispetto alla Convenzione della CEDAW, non solo perché è specifica contro la violenza, ma anche perché intende misurare il fenomeno in modo da chiamare in causa gli stati a intervenire con azioni di prevenzione più che di immediato soccorso più che di conteggio, certo. Diciamo. Cioè, quindi devono essere fatte delle politiche specifiche. La situazione in Italia è quella che leggiamo su tutti i giornali, c'è una nuova sensibilizzazione della stampa, una presa d'atto da parte di alcuni settori più illuminati della cultura maschile. Ci sono anche dei gruppi come Maschile Plurale che sin dal 2008 hanno iniziato a sentirsi chiamati in causa da questo fenomeno, e pur tuttavia diciamo che la stereotipizzazione, gli stigmi nei confronti delle donne vittime di stupro, non riconoscimento del lavoro dei centri antiviolenza sul territorio, quindi il non riconoscimento e il non finanziamento di queste azioni rendono il cammino molto difficile. Certo, in salita, perennemente. Se guardiamo all'indietro, siccome io ho fatto parte appunto come gruppo delle femministe di Pompomagno, di quelle che andavano al tribunale di Latina durante il processo per stupro, per il famoso, quello sì, vero femminicidio, stupro, che non era uno stupro, ammazzarono una persona, l'altra sopravvisse ma con grandi danni. Ecco, c'è un grande cambiamento nei linguaggi. Quanto questo abbia ridotto il fenomeno non lo sappiamo, non siamo in grado di misurarlo. Certo, il fenomeno è stato portato in evidenza e adesso abbiamo una maggiore conoscenza. Quanto poi questo colpisca le persone che non sono le cittadine italiane, le nostre forze di polizia, che in alcuni casi collaborano con i centri antiviolenza, come con Differenza Donne, cioè, quanto sia cambiato tutta la procedura delle vittime è per me, che non ho lavorato in centri antiviolenza, difficile da affermare. Certamente in 30 anni, 34 anni, io i cambiamenti li ho visti, ma non possiamo dire che è un fenomeno debellato. Certo, e soprattutto che ci sia una coscienza collettiva da parte non solo delle donne rispetto a questo fenomeno, no? Una presa di coscienza, no? Senti Bianca, proprio perché parliamo di femminicidi, qualche tempo fa, qualche giorno fa, insomma un mese fa circa, via, il 24 di ottobre del 2012, sul Fatto Quotidiano è uscito un articolo, diciamo, di questo signore, certo Marcello Adriano Mazzola, che proprio in merito a questi fenomeni, lui parla di presunzione, cioè di una presunta emergenza dei femminicidi, e soprattutto parla di una vendicativa campagna diffamatoria messa in atto dall'attuale femminismo. Cioè, in parole povere, lui dice che in realtà non c'è un fenomeno emergente di questo genere, che è costruito a tavolino, ed è costruito a tavolino dalle femministe che non si sa bene cosa vogliano. Quindi la domanda, cioè un ragionamento più che la domanda, il ragionamento che vorremmo fare con te è: cosa ne pensi di soggetti di questo genere, soprattutto di un aspetto che è quello del negazionismo, delle discriminazioni dei femminicidi, che esiste ed è presente tanto quanto, forse anche di più, rispetto alle coscienze, di quanto invece non ci sia di percorso di presa di coscienza, di consapevolezza delle discriminazioni e della condizione che ancora purtroppo le donne vivono nel nostro paese, per esempio. Ma io innanzitutto penso che, diciamo, c'è una costruzione della cultura maschile in questo paese che naturalmente si allarma quando si aprono terreni nuovi di conflitto. Penso che il femminicidio in Italia, cioè questa campagna contro il femminicidio, abbia messo a fuoco un forte conflitto nella relazione fra i sessi. Penso che, e quindi questa è la reazione a un conflitto che è molto forte. Proprio ieri, invitata dalle amiche di No More, le invitavo a ricordare che, sebbene la violenza e il femminicidio siano un fenomeno che ha bisogno di atti specifici, il discorso delle discriminazioni nei confronti delle donne è un discorso molto più ampio. E in questo senso, per esempio, io ritengo che la SIDAO, cioè che la vecchia convenzione degli anni 60, sia ancora utile e che debba intervenire insieme a questa eventuale nuova convenzione che entrerà in vigore, se entrerà fra 2 o 3 anni, questa di Istanbul, e forse anche un'azione delle Nazioni Unite che verrà fatta nei prossimi anni, molto vicina a questa convenzione sulla violenza maschile contro le donne. Naturalmente, cosa significa? Che c'è bisogno di lottare contro il patriarcato o le forme di violenza che sono post-patriarcali, cioè, alcune dicono, Ida Dominiani dice post-patriarcali, io penso che sia giusto anche dire post-patriarcali, nel senso che questo ordine che il patriarcato garantiva non c'è più, c'è una forte crisi nel soggetto maschile che tenta di riaffermarsi con atti di violenza, perché il dominio maschile sulle donne ha senz'altro nella violenza uno strumento di affermazione e di controllo. Penso che tuttavia l'Italia debba fare i conti con due cose che fanno parte degli ultimi nostri 20 anni, che sono, da una parte, l'arrivo di una globalizzazione che ha reso lo Stato meno attivo, la mercificazione, se vuoi, delle persone, cioè questo passare di tutti da soggetto a oggetto, no? Cioè le persone contano meno delle merci in qualche modo. Sì, e per le donne è stato portato all'ennesima potenza, possiamo dirlo questo, no? Sì, per le donne ha determinato una confusione rispetto a un percorso che era abbastanza chiaro, quello di passare da oggetti a soggetti, e poi il fatto che certe forme di oggettivazione ti rendevano la vita più facile, ha indubbiamente confuso anche i percorsi di molte donne, e quindi quella forma di globalizzazione nella relazione tra uomini e donne, che è stata rappresentata dal quello che chiamiamo il berlusconismo e che naturalmente si è collegato a tutto quello che ancora il femminismo non era riuscito a fare in moltissimi casi. Penso che è una situazione che richieda una maggiore conoscenza e consapevolezza di quello che ci è successo, anche del ruolo marginale che ha assunto se volete, il femminismo, del fatto che non tutto è riconducibile soltanto alla rivendicazione dei diritti, ma che è giustissima, ma la rivendicazione dei diritti deve in realtà mettere in scena il discorso della relazione fra uomini e donne, fra chi ha orientamenti sessuali differenti e chi invece fa parte dell'eterosessualità, con i migranti, la condizione delle donne migranti, la condizione delle badanti che spesso sono vittime anche di violenze domestiche e che non sanno come uscirne perché non hanno strumenti legali. Però quello che vorrei dire è che io, nonostante questo nuovo ruolo, penso che non tutto può essere affidato soltanto alla costruzione degli strumenti legali. Va indubbiamente fatta una campagna. In questo senso, per esempio, ho aderito volentieri a No More, perché al di là dell'attenzione agli strumenti legali, fa delle iniziative nei confronti dell'opinione pubblica e anche delle istituzioni. Questo penso sia un percorso necessario. Mi piacerebbe, e probabilmente accadrà, che nell'accettare questo termine femminicidio, nell'assumere la violenza maschile contro le donne come tema del conflitto più grande contro il patriarcato, mi piacerebbe se riuscissimo a fare una storia recente della cultura femminista e della condizione fra uomini e donne. Cioè, vorrei che tutto questo fosse una campagna di riflessione su come cambiare. Cioè, in realtà devo dire che sia la Convenzione di Istanbul che le nuove convenzioni dicono prevenzione, quindi dicono cambiamento dei ruoli tradizionali sessuali, delle stereotipi di cosa è essere donna, cosa è essere uomo. Quindi questo c'è nelle intenzioni anche delle Nazioni Unite, ma naturalmente scontra con situazioni anche economiche molto difficili. Io penso che, per esempio, le discriminazioni economiche, non solo nei confronti delle donne, ma in generale nei confronti del lavoro, siano una forte aggravante per le condizioni di violenza che si determinano. Non a caso i più marginali sono anche o autori o vittime, le donne spesso, più spesso le donne, anzi quasi sempre le donne e non gli uomini, di queste violenze. Se anche il naso tua, a sentire l'odore che c'è. Difendi il corpo e cerca il sole anche dove non c'è. Apri la bocca e fai fuoco, brucia la calma che hai. Apri la bocca e dai fiato. Allora, noi possiamo dirci estremamente soddisfatte dell'incontro con Bianca, che salutiamo e ringraziamo, e noi ci troviamo prossimamente un altro martedì. Grazie Bianca per essere stata con noi, io saluto, sono Lucilla e Rosina, va bene, arrivederci, alla prossima. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah, yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. Yeah. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento lesbiche romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. I really do believe.